Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 23 dicembre, Italia in controluce, la seconda edizione. Buongiorno in conduzione da Daniele Biacchessi. Quali sono le nuove frontiere della lotta alla 'ndrangheta? Sabrina Pisu ha intervistato Nicola Gratteri, uno dei magistrati più preparati ed esperti nella guerra alle cosche. Cosa rende la 'ndrangheta ancora oggi la mafia più forte, potente e pericolosa del mondo occidentale? Intanto la 'ndrangheta è l'organizzazione più dura, più cruda e chiasciuta che esista, ha poche sbavature, ha pochissimi collaboratori di giustizia, poche decine rispetto alle centinaia di Cosa Nostra o della Camorra. Quindi è molto credibile nel panorama internazionale, in particolare nei confronti dei cartelli colombiani. Nel suo primo libro, Fratelli di Sangue, lei racconta la sacralità che riveste la famiglia all'interno della 'ndrangheta. Pochi i pentiti rispetto alla mafia siciliana, ma sta cambiando qualcosa ultimamente? No, ancora no, perché anche se oggi ci sono 3-4 collaboratori di giustizia, ricordiamoci che negli anni 90 ne abbiamo avuti fino a 50 collaboratori di giustizia, eppure siamo ancora oggi, siamo al 2010 e oggi posso affermare che la 'ndrangheta è più forte di 20 anni fa perché è più ricca. Lei ha detto che bisogna smetterla di misurare il successo della lotta alla mafia contando il numero dei latitanti catturati. Quali sono gli altri indici che lei definisce di riferimento che fanno la credibilità di uno Stato? Intanto, per capire la forza delle mafie noi dobbiamo capire qual è il grado di vivibilità, ad esempio, degli imprenditori. Se noi vogliamo capire se ci sono aumentate o diminuite le estorsioni, noi dobbiamo parlare con gli imprenditori, con i commercianti, per capire quant'è la presenza e la pervasività delle mafie su quel territorio. Secondo Francesco Forgione, ex presidente della Commissione Antimafia, a Milano è in atto una guerra a bassa intensità, attentati, intimidazioni, cantieri che saltano, ma nessuno se ne occupa. È stato proprio sfruttando il silenzio della stampa che la mafia calabrese è riuscita a proliferare in molte regioni del nord, come il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Sì, certamente, cioè, la stampa ha sottovalutato il fenomeno delle mafie e ad esempio ha parlato, ha scritto poco di 'ndrangheta perché era sempre considerato una mafia di serie B, di serie C, quando in realtà la 'ndrangheta era molto più presente nella pubblica amministrazione rispetto a Cosa Nostra. Oggi noi abbiamo nei quadri della pubblica amministrazione o figli di 'ndranghetisti che sono medici, ingegneri, avvocati che sono nei quadri della pubblica amministrazione. Lei ha lanciato più volte un monito alla politica affinché non minimizzi il problema della criminalità organizzata. È giusto che la collettività sappia cosa succede nel territorio in cui vive e i politici dovrebbero promuovere leggi efficaci. Quali? Sì, nel libro con Antonio Nicaso, La mala pianta, l'abbiamo spiegato bene. La cosa che posso dire è che, per sintetizzare con una frase, bisogna creare un sistema penale, processuale, detentivo tale che non sia conveniente delinquere. La seconda è una storia di un comparto produttivo del Sud. È una storia di grandissime eccellenze e di aerei. Paolo Picone. È il 15 dicembre 2009 quando spicca il primo volo, il Boeing 787 Dreamliner. Decantato come un aereo superleggero dal design rivoluzionario costruito in fibra di carbonio e titanio, è capace quindi di abbassare sensibilmente i costi di carburante e di manutenzione. È considerato l'aereo del futuro proprio per il passaggio dall'alluminio al materiale composito. Una prima evoluzione degli aerei da trasporto commerciale ha portato a costruire in fibra di carbonio le superfici mobili e la coda, mentre tutto il resto in alluminio, titanio o acciaio. Boeing invece è andata oltre la tecnologia dell'alluminio, ritenendo che questo materiale avesse già espresso tutte le sue potenzialità e che invece la fibra di carbonio fosse in grado di assicurare per i prossimi 15-20 anni prestazioni superiori in termini di leggerezza e resistenza con minori costi. Perciò il 787 è costruito quasi interamente in materiale composito. Ebbene, questo gioiello dell'aeronautica statunitense parla anche italiano, anzi parla campano e pugliese. perché una parte consistente del programma 787 viene sviluppato e realizzato negli stabilimenti di Alenia di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli, di Foggia e di Monteiasi Grottaglie in provincia di Taranto. Un vero e proprio polo di eccellenza nel settore aeronautico che ci è invidiato in tutto il mondo. Il nostro viaggio alla scoperta dell'aereo del futuro parte proprio alle porte di Napoli, da Pomigliano d'Arco, lo stabilimento di Alenia Aeronautica. È qui che si effettuano dei test indispensabili per la certificazione, ma vengono prodotti anche dei componenti che poi successivamente serviranno per la realizzazione della fusoliera. L'ingegnere Giuseppe Pace, il responsabile bonding 787 backlog a Pomigliano d'Arco. Qui nello stabilimento di Pomigliano d'Arco di Alenia vengono prodotti degli elementi significativi strutturali del nuovo aereo della Boeing 787 e in parallelo, sempre nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, sono stati prodotti e vengono tuttora prodotti dei test in scala reale atti alla certificazione e alla aeronavigabilità del velivolo 787. In particolare per quanto riguarda la produzione vengono prodotti elementi strutturali che possono essere assimilati alle costole dell'aeroplano, in termine tecnico si chiamano frame e shear tie. Il nostro viaggio prosegue verso la Puglia, facendo tappa prima a Foggia, dove viene realizzato lo stabilizzatore orizzontale in fibra di carbonio, ovviamente composto da tre pezzi, uno centrale e due laterali lunghi 11 metri ciascuno. Qui lavorano 900 persone tra ingegneri ed operai. I componenti prodotti vengono inviati direttamente negli Stati Uniti. Lasciamo il capoluogo Dauno e ci trasferiamo a Grottaglie, in provincia di Taranto. Qui c'è il vero cuore pulsante di tutto il programma 787. Non a caso lo stabilimento di Alenia è interamente dedicato al programma e occupa circa 560 addetti. Con un processo produttivo innovativo in gran parte automatizzato, che sfrutta brevetti esclusivi ed equipaggiamenti unici al mondo, per la prima volta è impiegata la tecnologia One Piece Barrel, che utilizza i compositi per tutta la struttura primaria di un aereo commerciale. Il responsabile dello stabilimento è un ingegnere napoletano, Fernando De Maria. In questo sito si produce due sezioni di fusoliera 46 e 44 del programma 787. Noi siamo proprietari di brevetti che abbiamo sviluppato con la Boeing e ci sono al mondo solo quattro siti tra Giappone e America che possono produrre quello che viene chiamato il One Piece Barrel. Il One Piece Barrel è come dire, come peculiarità, un barile prodotto in carboresina preimpregnata, laminata su un mandrino, che viene successivamente poi curato e diventa un unico pezzo monolitico, contrariamente a quanto tradizionalmente tutte le fusoliere in alluminio venivano ad essere assemblate. Non è un caso che Boeing abbia puntato su Alenia, in particolare sugli stabilimenti del Mezzogiorno. Il perché ce lo conferma Marcello Bruni, direttore della comunicazione Boeing Italia e Sud Europa. Il gruppo Finmeccanica, nella qual parte di Alenia Aeronautica, rappresenta l'eccellenza sui materiali compositi, quindi nella nostra perlustrazione mondiale all'inizio del programma ci siamo orientati su Finmeccanica, su Italia come sistema paese, chiaramente Alenia Aeronautica, la quale ha ritenuto di intervenire nel Mezzogiorno d'Italia. Adesso il Mezzogiorno d'Italia rappresenta un punto di riferimento nella triangolazione, nel nostro caso con Giappone e Seattle, per quanto riguarda l'innovazione e la frontiera tecnologica che Grottaglie, quindi la provincia di Taranto, rappresenta. Insomma, non c'è alcun dubbio che tra Campania e Puglia si sia sviluppato uno dei maggiori poli d'eccellenza del settore aeronautico mondiale. Pietro Capogreco, il direttore relazioni esterne di Alenia Aeronautica. Parliamo di Mezzogiorno, parliamo di eccellenza, parliamo di una azienda globale italiana che vede attraverso i suoi stabilimenti del Mezzogiorno, di Foggia, di Grottaglie, di Pomigliano, di Nola, di Casoria, di Capo di Chino, vede un avanzarsi nel campo della tecnologia e della innovazione. il mio blog su radio24.it, poi altri sistemi per comunicare con noi: Facebook Radio 24 Italia in Controluce, Twitter in Controluce, dove potete lasciare brevi messaggi, e la mail controluce@radio24.it. Dateci le vostre impressioni sul programma, ma soprattutto delle idee dal territorio. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.